Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Allora, l'abbiamo capito già dalla scorsa primavera che non è tempo per sposarsi questo, perché lo sapete, stanno saltando tutte le cerimonie, soprattutto saltano i banchetti. Poi magari se una coppia vuole sposarsi può farlo tranquillamente davanti ad un sacerdote o in comune, dove vuole. Il punto è che le cerimonie sono un po' più complicate per le questioni del distanziamento, eccetera. Ma ci sono anche altri problemi. Allora, vi voglio raccontare quello che è successo a Venezia, naturalmente augurandovi anche il buongiorno. Buongiorno a tutti da Deborah Rossani. Quando ha letto la comunicazione dall'ufficio antiriciclaggio di Venezia, non poteva credere ai propri occhi. La signoria vostra si è resa responsabile della violazione dell'articolo 49 del decreto 21 novembre del 2007 per aver trasferito denaro contante per un importo complessivo di euro 4.000 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane. Che cosa è successo a questa signora di 60 anni che aveva anticipato 4.000 euro per il banchetto nuziale del figlio, il quale, a sua volta, una volta raccolti i soldi dalle buste degli invitati, e la modalità classica con cui a molti di noi sarà capitato di fare un regalo ad amici che si sposano o che si sposavano, che si sono sposati, ecco cosa ha fatto questo ragazzo. Una volta raccolti i soldi dalle buste degli invitati, ha restituito l'importo che la mamma aveva prestato, un importo restituito in tre tranche, due da 1.500 euro e una da 1.000. La signora a sua volta che cosa ha fatto? Appena ricevuti i soldi li ha depositati nella propria banca, ma la banca ha ritenuto un po' sospette queste operazioni, a noi viene molto da ridere, e a nulla è servito in quel frangente redigere la modulistica antiriciclaggio, perché la segnalazione è partita lo stesso e faceva riferimento proprio allo scambio di denaro avvenuto tra madre e figlio. Allora, che cosa ha fatto questa signora, un po' indispettita dall'accaduto? Si è rivolta all'ufficio legale di un'associazione dei consumatori che ci ha segnalato la cosa, Adico, dato che l'ufficio antiriciclaggio le ha comminato una sanzione ancora non definitiva, ma che oscilla fra i 400 euro, che è il 10% di quanto versato in banca, e addirittura 50.000 euro, con la possibilità di sanare l'infrazione pagando una semplice, tra virgolette, oblazione, qui Mauro si divertirebbe tanto, di 6.000 euro. Allora, non sappiamo ancora come andrà a finire la vicenda, però Adico ha fatto sapere che ha subito scritto all'ufficio antiriciclaggio di Venezia, al quale anche noi ci rivolgiamo pregandolo di ripensarci su questa vicenda, per rilevare la totale buona fede della signora, dell'assistita, e per chiedere l'archiviazione della posizione, anche perché, volendo andare nel particolare, ci racconta Adico, la consegna dei soldi dal figlio alla madre è avvenuta in tre tranche, quindi proprio ad essere pignoli, come dire, il danno non è stato commesso, e quindi tre tranche di un valore inferiore al limite consentito dalla legge sui pagamenti in contanti, che è di 2.000 euro. Io veramente sono un po' sbigottita rispetto a tutto questo, con tutto quello che ci sta capitando attorno, dover raccontare anche di queste vicende lascia un po' così perplessi. Quindi tanti auguri alla signora, soprattutto a suo figlio, che a cui il matrimonio è andato già di traverso, per quello che è capitato alla mamma. Peraltro veramente stiamo parlando anche di somme così ridicole che anche tutta la perdita di tempo della banca del fare tutto questo, insomma, ci sembra un po' un comportamento da considerare un po' discutibile, ecco, passatemi il termine. Di cosa parliamo però oggi? Oggi è mercoledì, abbiamo i nostri mercoledì del lavoro, abbiamo altre ricerche di INAP, che è questa istituzione con la quale stiamo collaborando da diversi mercoledì, come sapete. Oggi parliamo di un tema che sicuramente molti di voi cominceranno subito a contestare, perché parliamo di giovani che entrano nel mercato del lavoro e chiaramente cercano sicuramente delle opportunità, ma cercano anche delle aziende di qualità. Allora INAP oggi ci racconterà Che cosa si intende per azienda di qualità? Che cosa vuol dire anche per un giovane individuare un'opportunità di professionale in un mondo imprenditoriale, in un mondo professionale appunto che sia caratterizzato anche da aspetti di qualità per quello che riguarda il rapporto con gli altri colleghi, per quello che riguarda il rapporto con il datore di lavoro? E quindi un tema sicuramente molto interessante che partirà da un'analisi sui canali che vengono utilizzati per cercare lavoro. Che canali usano i ragazzi, che canali usano le aziende per naturalmente stabilire un rapporto di lavoro che soddisfi entrambe le parti. Giovani all'ascolto, allora noi ci rivolgiamo oggi soprattutto a voi, se stamattina avete la pazienza di ascoltarci, non siete scoraggiati rispetto a tutto quello che ci sta capitando in questo momento, pensiamo in particolar modo alla fascia 18-29 anni. Raccontateci se volete, e se volete lo possono fare anche i genitori, quali canali utilizzate per cercare lavoro e perché, cosa osservate, se avete dei giovani in casa, ci riferiamo anche alle famiglie stamattina, o comunque vicini a voi, che cosa osservate, che cosa notate nel loro modo di cercare lavoro, cosa usano, hanno spedito curriculum, hanno attivato anche il passaparola tra amici, conoscenti, o si sono rivolti ad un'agenzia, che idea hanno dell'azienda nella quale vorrebbero andare a lavorare. Insomma, tanti aspetti da affrontare quest'oggi. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, oppure scriveteci anche al 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Adesso partiamo con il nostro giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Tre notizie che ci sembravano particolarmente interessanti da segnalarvi. Allora, si sta concludendo il mese dell'educazione finanziaria. Ieri il Comitato Nazionale Edufin ha presentato le linee guida per l'educazione finanziaria degli adulti, ma nel frattempo sul territorio proseguono anche iniziative da parte di istituzioni, enti, compagnie di assicurazione, banche, eccetera. Oggi ve ne volevamo segnalare un altro di appuntamento, quello organizzato da Leonardo Assicurazioni, che ha aderito al mese dell'educazione finanziaria con un evento dal titolo Welfare aziendale ed educazione finanziaria, coniugare sostenibilità e produttività. È un tema interessante questo, perché sappiamo molto bene quanto le persone giudichino con perplessità il tema della previdenza integrativa, della previdenza complementare, e noi riteniamo che le campagne di informazione su questo tema così delicato debba essere fatto proprio all'interno delle aziende, per cui chissà che oggi non venga declinato anche in questo senso. L'evento organizzato da Leonardo Assicurazioni si svolgerà appunto domani, scusatemi, ho detto oggi, ma è domani l'evento, il 29 ottobre alle 18, in diretta, rigorosamente streaming, quindi a distanza come tutti quelli che si stanno svolgendo in questo periodo, da Studio Leonardo, che è un nuovo format comunicativo che si è inventata appunto questa assicurazione, come molte altre realtà stanno facendo. Per partecipare a seguire l'evento basta connettersi al canale YouTube della società, appunto della compagnia di Leonardo Assicurazioni. Allora, i tassi negativi sul mercato. C'è un'altra banca che ha deciso di ribaltare il costo dei tassi negativi della Banca Centrale Europea sulla clientela. È la banca N26, è una banca che punta soprattutto sul fintech, quindi una banca esclusivamente online. È una banca diretta tedesca che però ha anche delle attività italiane, anche la filiale italiana. Ha deciso di applicare sulle somme depositate da parte dei clienti che superano la soglia dei 50.000 euro una imposizione, una tassa dello 0,5%. Il provvedimento entrerà in vigore a fine mese e verrà adottato sui conti correnti aperti dopo il 19 ottobre, e la misura interessa anche l'Italia, secondo quanto si apprende dalla banca, e in tutti i paesi in cui l'istituto è presente. La notizia è anche oggi sulle Sole 24 Ore nelle pagine di Finanza. Dal provvedimento però sarebbero al momento escluse Spagna e Portogallo e tutti i paesi dove, a quanto si apprende, la regolamentazione bancaria non consentirebbe questa misura. La mossa di N26, che è una banca che ha già superato i 5 milioni di clienti a distanza di oltre 5 anni dal lancio della sua operatività, avvenuto a gennaio 2015, è allineata a quella di alcune banche europee che da tempo hanno deciso di applicare appunto un prelievo dello 0,5% sui conti correnti o sulle eccedenze di determinati conti di deposito, adeguando così la tassa di pari valore applicata dalla Banca Centrale Europea sui depositi a partire dal settembre 2019. Ricorderete che La prima a muoversi in questo senso in Italia era stata Unicredit, che proprio un anno fa aveva deciso di applicare sui depositi più sostanziosi la cosiddetta tassa BCE. Chiamiamola così, è un prelievo, appunto, è una sorta di riconoscimento in negativo sui depositi, come dicevamo, che naturalmente è anche un forte tema di educazione finanziaria, perché molto spesso spieghiamo quanto anche sia pericoloso detenere troppa liquidità sui conti. Potrebbe arrivare anche da parte della banca una mossa di questo genere. Vedremo se dopo N26 ne seguiranno prossimamente altre. L'ultima notizia velocissima: vi ricordate, qualche giorno fa vi abbiamo dato la notizia relativa al gruppo bancario svizzero UBS, che aveva perso l'arbitrato Consob con un cliente, un imprenditore agricolo, al quale aveva consigliato investimenti per oltre 1 milione di euro in prodotti che si erano dimostrati derivati rischiosi. Una vicenda che risaliva al 2014: un imprenditore di Firenze aveva investito in derivati con sottostante il petrolio, nel giro di un anno e mezzo aveva perso 500.000 euro. Poi si era rivolta agli avvocati, che a loro volta avevano suggerito a questo risparmiatore, appunto, di rivolgersi a sua volta all'arbitro per le controversie finanziarie, questo organismo della Consob, appunto, che è un arbitro, un organismo che risolve in via alternativa al tribunale le controversie finanziarie. L'arbitro Consob, appunto, che cosa aveva stabilito? Che non c'era stata carenza informativa da parte di UBS nei confronti di questo cliente, ma aveva ritenuto che comunque, trovandosi di fronte al suggerimento di investire in un derivato, questo non fosse esattamente un prodotto di investimento che potesse essere consigliato a questa categoria di investitori, e quindi aveva appunto condannato, tra virgolette, UBS al risarcimento della minusvalenza da 479.000 euro più gli interessi. Allora, qual è la novità? Perché ci siamo ritornati su questa vicenda? Perché con un annuncio apparso sui giornali, il gruppo svizzero ha fatto sapere che non dà esecuzione alla delibera dell'arbitro Consob. Questa delibera, d'altronde, non è una decisione esecutiva come quelle che emergono dai tribunali. Si invitano generalmente le parti a stabilire un accordo, ma poi c'è l'obbligo, appunto, di rendere pubblico quanto si intende fare, come nel caso di UBS, che non darà esecuzione a questa restituzione. Quindi vedremo adesso se si andrà in tribunale, se il risparmiatore, appunto, deciderà di andare avanti con questa vicenda andando a questo punto in tribunale. Fine con le notizie in breve, il primo tema di questa mattina. Parliamo di lavoro. Allora, lockdown, annusiamo nuovi lockdown in arrivo. Probabilmente molti di noi hanno deciso di frequentare un po' meno i supermercati, staremo di più a casa, tanta spesa a distanza e quindi tanto movimento di trasportatori in questa fase. La logistica è un settore strategico per il nostro paese, ce ne siamo accorti durante il lockdown. Molti hanno scoperto che le merci non viaggiano da sole, e in Italia quasi 90% delle merci è trasportato su gomma. All'interno del comparto, quindi, l'autotrasporto ha un ruolo trainante, e da anni ormai l'autotrasporto deve fare i conti con un'emergenza che sta diventando strutturale: mancano autisti di mezzi pesanti, almeno 15.000. È un fenomeno che comunque interessa tutta l'Europa, e si stima che a livello continentale ci sia una necessità di almeno 150.000 guidatori, ma è una professione che non ha grande consenso, soprattutto tra la platea giovanile dei potenziali lavoratori. Torniamo a parlarne di questo argomento con Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Lomonte, buongiorno e grazie di essere tornato con noi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E allora, mancano all'appello 15.000 autisti. Cosa significa per le aziende di autotrasporto, Lomonte? Ci sono difficoltà nell'organizzare, soprattutto in questo momento così delicato, la regolarità anche dei servizi, appunto, che garantite al sistema economico-produttivo del nostro paese? Sì, sì, effettivamente un po' come ha spiegato, anticipato lei. Intanto mi permetta di assecondare la sua premessa rispetto al ringraziamento che va agli operatori del settore, agli autotrasportatori, perché non solo durante il lockdown, ma anche in questa fase acutissima di emergenza, o meglio nel riacutizzarsi di questa pandemia, stanno dimostrando un grandissimo valore sociale nel continuare ad approvvigionare tutti i siti e le strutture un po' più impegnate, quali farmacie e ospedali, proprio per mettere in campo, no, le migliori pratiche per fronteggiare il Covid. Fatta questa premessa, ecco, la carenza di autisti sicuramente sta danneggiando il settore, sempre più lo danneggerà nei prossimi anni, perché purtroppo è diventato un problema strutturale. Lei anticipava che è un problema comune a tutta l'Europa e purtroppo dobbiamo interrogarci su questo. Noi ci stiamo provando anche con le istituzioni, stiamo facendo delle analisi, perché purtroppo la professione di autotrasportatore, dobbiamo dircelo, non è più appetibile. E quindi per una ricerca, per andare a fondo sulle cause di questo malessere, della mancanza di autisti, di gente che si avvicina a questa professione, sicuramente non si può non parlare di un problema macro, di un problema generale, perché venendo meno gli autisti, venendo meno gli operatori del comparto, sicuramente verrà meno anche la mobilità di merci, ma posso dire anche di persone, e quindi ne andrà a detrimento di tutto l'economia e di tutto il paese. Quindi bisogna sicuramente mettere mano a questa penuria di autisti e tornare a rimettere in moto quelle condizioni che negli anni 50, 60, 70 hanno favorito invece lo sviluppo di questo comparto e hanno dato il via a tantissime aziende, quelle artigiane soprattutto, no, che sono il core del settore, come dimostrato dai dati dell'Albo Autotrasporto, che appunto in quegli anni del boom economico hanno dimostrato, no, un'intraprendenza e una voglia di dare spinta al paese, all'economia, alle infrastrutture e allo sviluppo che accomunava il paese tutto. Ecco, oggi c'è bisogno nuovamente di questo, di quelle condizioni, che se vuole possiamo anche in qualche modo approfondire. Assolutamente, abbiamo un paio di minuti di tempo, dobbiamo andare subito alle indicazioni molto concrete per i nostri ascoltatori, perché le anticipo già, ma io so che lei se lo sarebbe immaginato senza alcun problema, che ci stanno scrivendo in molti, naturalmente attribuendo a questa problematica di carenza di queste professionalità la questione economica. È un mestiere che non attrae moltissimo i giovani, anche perché c'è un tema: resiste un'idea del camionista fondata forse su stereotipi datati, vecchi. Oggi in realtà il mestiere è molto diverso dal passato, si macinano naturalmente sempre tantissimi chilometri, ma forse su tir che sono un po' più comodi, più digitalizzati, tecnologicamente anche avanzati, eppure questo non basta ad attirare i ragazzi che vorrebbero essere retribuiti per bene per il sacrificio che si fa. È questo il tema principale, dottor Lo Monte, cosa possiamo fare per avvicinare i ragazzi a considerare almeno questo lavoro, anche magari non per sempre, per un po', fino a quando anche si ha un po' le strutture fisiche per poter resistere a certi sforzi che poi a lungo termine diventano effettivamente complicati da sopportare. Lo Monte. Sì, assolutamente sì. La questione economica è dirimente. Noi abbiamo provato anche a porla al centro dell'attenzione nelle interlocuzioni col governo, perché riteniamo che sicuramente la mancata appetibilità verso questa professione derivi da mancata competitività e da mancati ritorni economici. Oggi la professione, è chiaro che siamo sempre visti dal pubblico, comunque in generale, come i brutti, sporchi e cattivi. Oggi la professione è una professione altamente qualificata, digitalizzata, per cui abbiamo necessità anche del supporto in termini formativi degli istituti tecnici superiori, no, dello sviluppo di ulteriori competenze attraverso proprio scuole formative, e noi in questo senso ci siamo mossi sia come organizzazione di categoria, come Confartigianato, sia come Albo Autotrasporto, no, nel creare delle sinergie per rendere, quindi dicevo, più digitalizzata la professione, quindi far capire al giovane che non è più soltanto una questione di guida il camion e basta, stai fuori tutta la notte, stai fuori la settimana, no, oggi è una professione in cui tu devi avere contezza di digitale, di nuove caratteristiche tecnologiche, emissioni, risparmi, guida sicura, guida ecosostenibile. Ecco, tutte queste caratteristiche, quindi abbinare formazione con ritornare a dare invece competitività al settore con norme e incentivi per sostenere una professione fondamentale, per esempio dando anche maggiori incentivi in termini di contribuzione. Noi oggi viviamo una scellerata situazione sulle nostre strade in cui vettori stranieri, soprattutto dell'est Europa, in ragione di un cabotaggio, di una liberalizzazione che comunque l'Europa in qualche modo ha avviato nel mercato unico comune, certo, scorazzano e quindi fanno sleale concorrenza ai nostri operatori. Ecco, una serie, quindi un buon mix, sì, tra formazione, sì, e condizioni di contesto di competitività potrebbe dare nuova linfa per questa professione. Ci ritorneremo su questi argomenti, anche perché effettivamente se questo paese tornerà a bloccarsi per la pandemia, eccetera, di trasportatori ci sarà sempre più bisogno, perché in qualche maniera il paese dovrà continuare a trasportare beni in giro per tutta l'Italia, e quindi immaginiamolo anche come un settore resiliente rispetto a tanti altri che invece saranno in difficoltà sempre più pronunciate. Grazie a Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, per essere stato con noi. Torneremo su questo tema perché ci avete scritto in tanti. Adesso vado rapidamente alla borsa perché è un'altra giornata molto pesante, e poi andiamo allo speciale appunto di INAP sui giovani e il lavoro da molti altri punti di vista. Tra poco. 10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione adamantina. Due di denari. Parliamo di lavoro con INAP. E allora, sì, lo stanno sottolineando già molti ascoltatori, continuando a commentare il tema che abbiamo affrontato nella prima parte della nostra trasmissione. Viviamo tempi cupi, settimane difficili, facciamo fatica a guardare in prospettiva. Oggi però vorremmo fare uno sforzo e parlare di lavoro associandolo al tema della qualità. Perché? Perché quando il lavoro e le imprese sono di qualità, resistono meglio alla crisi. Ce lo dice INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, del quale oggi vi presentiamo un altro lavoro, come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Torniamo a focalizzarci sui giovani, perché è sotto i nostri occhi un'evidenza. Sono loro che hanno non solo maggiori difficoltà nell'entrare nel mercato del lavoro, ma anche minori probabilità di trovare un lavoro di qualità. I giovani rappresentano il segmento meno garantito, ma questa popolazione deve affrontare tante altre criticità che stanno diventando purtroppo strutturali. L'elevata disoccupazione di lunga durata, che spesso sfocia nello scoraggiamento, e molti ce lo raccontano, è l'occupazione soprattutto con contratti a termine, in particolare di breve durata. E allora, due le ricerche INAP che forniscono oggi spunti al nostro programma. Si chiamano la prima Plus, la seconda Qualità del lavoro. Oggi ci soffermiamo proprio sul tema della qualità del lavoro, parlando di giovani dai 18 ai 29 anni e di imprese, con le due ricercatrici che ci daranno qualche dettaglio in più rispetto all'approccio dei giovani al mercato del lavoro e soprattutto rispetto ai canali che i giovani e le imprese utilizzano per ritrovarsi fra di loro, per incrociare domanda ed offerta. Buongiorno alla dottoressa Francesca Bergamante, sociologa, ricercatrice INAP della struttura Lavoro e Professioni e responsabile dell'indagine INAP Plus. Benvenute, grazie. Buongiorno, grazie a voi. E ben trovata anche alla dottoressa Tiziana Canal, ricercatrice INAP per la struttura Lavoro e Professioni e responsabile dell'indagine sulla qualità del lavoro in Italia. Ben trovata anche a lei. Buongiorno. Comincio con la dottoressa Francesca Bergamante, perché nell'ambito della ricerca di un'occupazione un aspetto sicuramente importante è quello dei canali di intermediazione che vengono utilizzati, perché anche questi, anche trovare il canale giusto con il quale candidarsi, è un tema che influenza poi la qualità del lavoro che viene trovato. Guardando un po' meglio ai dati che emerge dalla vostra indagine, sembra appunto è chiaro che nella ricerca di un lavoro fra i giovani l'invio di curricula e autocandidatura rappresentano il modo più diffuso che viene appunto utilizzato dai ragazzi per intercettare o la prima o una nuova opportunità professionale. Poi c'è anche il ricorso ad amici e parenti. Mi verrebbe da dire, dottoressa Bergamante, aveva ragione l'ex ministro del lavoro Giuliano Poletti quando sosteneva la sua teoria del campo di calcetto, se la ricorda? Certo, ve la ricordo. In parte sembrerebbe di sì, in parte io, come dire, forse non concordo esattamente con l'esito del canale utilizzato, nel senso che di fatto la formalità per eccellenza, il canale è sicuramente quello che dà maggiori garanzie. Il fatto che si utilizzino maggiormente canali di natura informale, come ad esempio appunto il ricorso ad amici, parenti e conoscenze, ha delle conseguenze, soprattutto rispetto al fatto che penalizza le persone che hanno come dire, delle reti sociali più deboli o dei background familiari non particolarmente elevati, e quindi crea sicuramente una locazione imperfetta e un matching, diciamo, tra domanda e offerta di lavoro che sicuramente non è quello ottimale. Quindi diciamo il problema dell'informalità nella ricerca di lavoro riguarda l'Italia in generale, ad esempio, che si tenta, come dire, di spostare e di togliere la dominanza del canale informale della ricerca di lavoro, tuttavia questo ancora non avviene. In altri paesi europei gli strumenti hanno una forza diversa e i canali istituzionali, quindi i centri per l'impiego piuttosto che le agenzie per, per il lavoro o le società di selezione del personale, hanno sicuramente un ruolo più grande, ma questo ruolo è anche dato dal fatto che i posti vacanti passano attraverso queste strutture. Da noi così non avviene, e quindi appunto certo. I giovani, prego. No, dottoressa Bergamante, è un tema veramente interessante quello che lei sta commentando, perché mi stavo chiedendo, stavo cercando di capire le ragioni per cui una volta usciti magari dalla scuola, dall'università, non appena si ha l'occasione di cominciare a candidarsi nel mercato del lavoro, la prima idea che viene in testa è quella di attivare la rete sociale attorno a sé per capire se si possono trovare delle opportunità. Ma secondo lei è perché c'è lo scoraggiamento di cui parlavamo prima fra i ragazzi, oppure perché effettivamente non si ha fiducia nel canale che può mediare verso un'impresa, un canale ufficiale, professionale, istituzionale, oppure perché se ne ha ancora una scarsa conoscenza, si conosce poco come funzionano le agenzie per il lavoro? Abbiamo anche fatto un lungo ragionamento con il vostro presidente la settimana scorsa sui centri per l'impiego, altro grande ambito di insicurezza e incertezza. Perché si attiva subito la rete sociale e non si va subito al canale istituzionale, a suo avviso? Allora, innanzitutto secondo me è interessante dire, come dire, sfatare il mito anche del giovane Ciusi. Il fatto che in realtà anche da altre analisi che abbiamo condotto con altre banche dati, che i giovani sicuramente non sono pigri nella ricerca di lavoro, diciamo, si attivano e si attivano immediatamente, e il canale tra l'altro che utilizzano maggiormente è quello dell'invio di curricula e dell'autocandidatura. Dopodiché appunto sostanzialmente il problema è come trovano lavoro, e lì diciamo il fai da te, che appunto come dire, uno strumento che riguarda diversi aspetti, quindi appunto l'autocandidatura e il curriculum, la risposta alle inserzioni, è quello che colloca maggiormente, circa il 46%, diciamo così, dei giovani che trovano lavoro, e seguono i canali informali. Appunto 3 giovani su 10 trovano lavoro grazie ad amici, parenti e conoscenti. Ora c'è una debolezza strutturale sicuramente dei canali istituzionali, una debolezza che non si riesce a scardinare, e che appunto in altri paesi europei invece, come dicevo prima, di fatto si è realizzata, ma si è realizzata perché c'è, come dire, in alcuni paesi europei ci sono delle strutture che sono prettamente e specificamente dedicate ai rapporti con le aziende. E questo sicuramente favorisce, come dire, il passaggio di alcune posizioni vaganti che altrimenti rientrano solo in un circuito di eletti. Certo. Conoscendo questa situazione, sicuramente i giovani non si rivolgono né alle agenzie né ai centri per l'impiego, e questo appunto vale sia per il privato che per il pubblico, quindi è una debolezza congiunta. Ecco, le leggo un messaggio che arriva da Riccardo. Da settembre 2019 sono in possesso del titolo professionale di operatore amministrativo segretariale, peraltro da quello che mi risulta una professionalità molto corteggiata da tante aziende che hanno bisogno di professionalità in questo campo sempre più specializzate, ma quando mi sono recato al centro per l'impiego per aggiornare il mio curriculum mi hanno detto che non poteva essere inserito nel sistema perché potevano prendere in considerazione solo il titolo di studio. Certo che anche questa è da parte delle istituzioni che dovrebbero sostenere i giovani che si formano per quello che possono e rimandarli indietro perché per condizioni strutturali di modo di lavorare appunto non si ha un'apertura mentale per aiutare, anche se è un po' al di fuori del proprio campo di azione, ecco, questa è una rigidità che sta cominciando a diventare inaccettabile. Allora, i canali informali per cercare lavoro, Tiziana Canal Anche le aziende praticano la stessa via per ricercare nel mercato del lavoro le professionalità che servono. Non immaginiamo noi l'attività di un imprenditore che prende un megafono e fa un annuncio per attivare il canale sociale per cercare appunto le persone che servono in azienda, il personale che serve in azienda. E anche da questo punto di vista, che cosa possiamo dire? Che cosa cercano le aziende? Lo sappiamo, ma in che modalità cercano? Perché ci sono anche tante discussioni, io lo vedo sui social, relative alle denunce che molti imprenditori fanno di professionalità che non trovano, e poi se si va bene a guardare come anche loro fanno veicolare questo messaggio di mancanza, non è un messaggio che fanno veicolare in maniera molto professionale, cioè si cercano delle persone ma le persone non lo sanno, quindi fanno fatica anche ad individuare le aziende che hanno bisogno. Forse anche le aziende dovrebbero fare qualcosa in più. Che cosa ci racconta la vostra analisi? Allora, la nostra analisi ci racconta che dal lato delle imprese accade un po' quello che ci ha già raccontato la dottoressa Bergamante. I datori di lavoro solo nel 14% dei casi utilizzano i canali istituzionali, quindi anche dal lato delle imprese c'è una debolezza del canale istituzionale. Per ricoprire le posizioni vacanti, i datori di lavoro nella maggior parte dei casi, nel 46% dei casi, si organizzano per proprio conto. Noi l'abbiamo chiamato il fai da te del datore di lavoro, e quindi cosa fanno? Ricorrono ai giornali, alla stampa locale o alla stampa specializzata, rispondono alle domande di candidatura che ricevono. Questo dato indubbiamente è anche un po' legato a quello che è il nostro tessuto produttivo italiano. Ci dobbiamo ricordare che il nostro tessuto produttivo si compone principalmente di microimprese, quindi di imprese che hanno fino a 10 dipendenti, quindi forse questa potrebbe essere un po' da un lato una spiegazione, dall'altro indubbiamente anche quello che dicevate voi prima, cioè il fatto che c'è una debolezza del legame fra i centri per l'impiego e le imprese. Come raccontava la dottoressa Bergamante, in alcuni paesi europei, mi viene in mente la Germania, ma anche la Francia, all'interno dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro, ci sono proprio delle figure che si occupano delle relazioni con le aziende. Da noi, indubbiamente, questa cosa è molto, molto più debole. Ma sì, perché la risposta data all'ascoltatore che ci raccontava prima di questa rigidità di non voler fare una modifica del curriculum perché non è secondo i criteri istituzionali della specificità del lavoro del centro per l'impiego, ci sembra che oggi non sia più accettabile. Non so che cosa ne pensiate voi, dottoressa Canale, però insomma bisogna veramente essere un po' più flessibili, perché altrimenti da questa problematicità che viviamo adesso nel mercato del lavoro non ne veniamo fuori. Non so come la pensi lei. Assolutamente la penso come lei, anche perché ci troviamo di fronte, oltre ad un momento molto delicato, comunque ad un momento di grossi cambiamenti. Pensiamo a tutta l'innovazione tecnologica che sta coinvolgendo comunque tutto il mondo del lavoro, quindi sì, indubbiamente c'è ancora bisogno di fare un grosso sforzo da parte dei centri per l'impiego. Tant'è vero che poi allora, abbiamo anche... Le chiedo un attimo, grazie dottore, mi scusi, sono sempre un po' maleducata, mi insinuo nelle considerazioni dei nostri ospiti, ma abbiamo le nostre scadenze, adesso c'è il traffico, ma voglio comunque leggere il messaggio di questo giovane ascoltatore, visto che li ho chiamati, hanno aderito immediatamente alla nostra proposta. Deborah, ho 29 anni, lavoro come analista finanziario, cerco nuove offerte tramite LinkedIn o vado direttamente sui siti web delle aziende nel link posizioni aperte. Confermo, come state dicendo, la minore disponibilità di offerte di lavoro su questi canali rispetto, per esempio, a quella che è stata la mia esperienza di ricerco, immagino, in Francia. Forse l'ascoltatore appunto ha cercato anche in questo paese. Da qui ripartiamo dopo il traffico. Due di denari. Salve, sono un educatore pedagogista, ho 31 anni, ho cambiato due volte lavoro, tutte e due le volte tramite amici che passavano il mio curriculum alle cooperative o comunità di turno. Penso che non sarà un caso che due volte su due abbiano preso in considerazione un curriculum con referenze da un educatore già dipendente. Ma questo noi lo consideriamo, lo dico alle nostre due ricercatrici di questa mattina, Francesca Bergamante e Tiziana Canal di INAP, sicuramente un modo utile per far circolare il proprio nome. Penso anche che ci siano certi settori dove magari questo modo di far circolare la propria candidatura siano più efficienti, altri in cui sia un po' più difficile. Però Francesca Bergamante, torno da lei. È chiaro che anche dal canale che si utilizza per presentare la propria candidatura dipende poi il fatto di poter arrivare a lavorare in un'azienda che si possa definire di qualità. Che idea hanno i ragazzi di un'azienda che abbia una caratteristica di questo tipo? Che cosa vuol dire un'azienda di qualità secondo la testa dei giovani, appunto, che provano a candidarsi ad entrare adesso nel mercato del lavoro? In realtà i giovani sono ovviamente in particolar modo interessati anche alla stabilità del posto di lavoro, e questo non è, come dire, un'illusione, più che altro è un elemento che consente di avere anche una visione prospettica, perché sappiamo benissimo che laddove esiste una fragilità contrattuale ripetuta si generano carriere interrotte, si generano interruzioni anche nelle forme contributive, quindi sostanzialmente, come dire, la forma di lavoro non è irrilevante nella ricerca di un lavoro, e questo, diciamo, lo sostengono anche i giovani. Ed effettivamente dal tipo di canale che ha dato l'occupazione ne deriva anche appunto, in termini di qualità, una differenza rispetto alla tipicità o meno dell'occupazione che si è trovata. E per tipicità noi intendiamo non soltanto avere un contratto a tempo indeterminato o anche essere un lavoratore autonomo, ma anche lo svolgere magari un'attività di lavoro con la forma della collaborazione, ma pura, quindi dalla tipicità noi escludiamo le false partite IVA o le false collaborazioni. Mm-hmm. E da questo punto di vista il canale che dà maggiore stabilità a livello contrattuale è quello del, appunto, informale, amici, parenti e conoscenti, e al contrario invece la maggiore atipicità contrattuale si delinea nel caso di un giovane che ha trovato lavoro con i canali di tipo istituzionale, ma questi rappresentano il 77% della tipicità. Quindi, come dire, la tipicità genera sicuramente non soltanto un miglior benessere personale, ma genera anche poi una situazione di maggiore produttività del lavoratore, e questo è stato sempre dimostrato, e quindi la tipicità contrattuale si lega anche con maggiori risultati dal punto di vista dell'impresa. Tiziana Canale, nelle vostre indagini voi avete utilizzato anche il concetto di impresa pop. Questo è un termine molto diffuso tra la popolazione giovanile, che parla di pop star, di musica pop, eccetera. Quando un'impresa è pop agli occhi di un ragazzo, quando si rende appetibile appunto per una candidatura, e esiste anche la possibilità di considerare nella busta paga finale alcune voci che non siano magari contemplate in questo, nello stipendio finale, voci che non siano contemplate appunto nella busta paga, la qualità di vita all'interno dell'azienda, quanto è ricercata da un ragazzo oggi? Sappiamo che sono aspetti sempre più importanti. Stiamo andando troppo verso la chiusura, ce la facciamo in un paio di minuti anche a raccontare di questo ambito che avete esplorato con grande attenzione, quello dell'impresa pop. Sì, allora, le imprese pop sono, diciamo, quelle che investono molto nel coinvolgimento e nella partecipazione dei lavoratori. L'acronimo POP sta proprio per pratiche organizzative di tipo partecipativo. Che cosa significa? Che sono quelle imprese, per esempio, che fanno degli incontri regolari con i lavoratori ogni volta che devono condividere delle nuove scelte, delle modalità di svolgimento del lavoro. Sono quelle imprese che fanno molta formazione, che valutano per esempio la performance del lavoratore, non solo guardando al raggiungimento dell'obiettivo, ma anche, diciamo, interrogandosi su come è stato raggiunto questo obiettivo. E quello che è venuto fuori dai nostri studi è che queste imprese in cui c'è un ottimo clima lavorativo sono quelle in cui i lavoratori si trovano meglio, e sono anche quelle che hanno i migliori risultati dal punto di vista della performance finanziaria, della produttività, mm-hmm, del lavoro e della qualità dei prodotti e dei servizi. E sono anche le imprese che di più hanno innovato in questi ultimi anni, sono le imprese che hanno effettuato più investimenti nelle nuove tecnologie, nei nuovi processi produttivi, che hanno inserito dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi. Tra l'altro noi conduciamo questa indagine da diversi anni e nella precedente indagine abbiamo visto che sono state anche le imprese che hanno resistito meglio alla crisi finanziaria del 2008. Certo, sarà quindi interessante vedere fra un anno o due che cosa racconteranno le vostre indagini rispetto a come le aziende hanno sopportato, gestito e possibilmente speriamo superato anche la difficilissima condizione economica che sta maturando e sta provocando la pandemia. Siamo quasi in chiusura, abbiamo un'esperienza, finalmente un ascoltatore in diretta, Luis da Milano, velocissimo, grazie. Pronto, buongiorno. Dunque sì. Volevo giusto condividere un attimo quella che è stata la mia esperienza per entrare nel mondo del lavoro, che è stata anche un po' agevolata perché sentendo l'intervento della dottoressa, io parto da un istituto tecnico che mi ha fatto fare l'alternanza scuola-lavoro, quindi poi sono entrato in università con un ottimo job placement che a sua volta mi ha dato la possibilità di fare uno stage in università specialistica tramite il job placement. Sono entrato in una grossa banca prima di laurearmi, il che poi mi ha portato anche a fare un percorso all'estero di un anno tramite la stessa banca, quindi qua potremmo definirla un top employer. Successivamente sono rientrato in Italia e ho continuato così. Cosa ha fatto la differenza? Senz'altro job placement, quindi la rete creata dalle istituzioni scolastiche e certo. formative. Ovviamente anche il social networking, proprio in termini di app e siti consultabili. E soprattutto sono... Luis, devo salutarti, ma un grande attivismo, una grande curiosità, una grande proattività da parte tua, che non è sempre una come dire, condizione comune fra i ragazzi. Quindi datevi da fare, ragazzi. Il momento è duro, ma le opportunità ci sono, soprattutto se le cercate con insistenza attorno a voi. Grazie a Tiziana Canale, Francesca Bergamante di INAP per essere state con noi. È tardissimo, torno domani con Investire Informati. Buona giornata a tutti. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.